di Devana e Rafael Lema Mouso, La via pagana a Compostela, Anguana Edizioni. Finisterre, un viaggio verso l'ascensione di Devana. Il Finisterre di Galizia rappresenta l'ultima terra asciutta e abitata prima dell'Oceano Atlantico. La Costa da Morte, in particolare, è il tratto di costa dove i pellegrini provenienti dal cuore dell'Europa e dall'antica Grecia, percorrendo l'antica via pagana verso il tramonto lungo il Cammino del Sole, sbucavano al mare dopo aver attraversato Compostela, il Campus Stelle, sovrapposto agli antichi boschi sacri della popolazione celtica che allora abitava il territorio galaico. Io, Devana, ho compiuto 4 viaggi lungo questo cammino tellurico, cercando risposte, risvegli, visioni. Il giorno 18 ottobre 2011, all'aeroporto di La Coruña, Galizia, io e la mia sorella spirituale spagnola Teresita Ramos ci incontrammo per esplorare insieme il Finisterre di Galizia. Arrivammo a Finisterre piuttosto tardi, giusto il tempo di fare il check-in all'ostello dei pellegrini e una rapida doccia, e già ci attendeva Rafael Lema, autore del libro Il cammino segreto di Santiago, La via pagana dei morti e coautore di questo libro. L'amico e collega ricercatore ci ha guidate attraverso i siti più forti e spettacolari della trama finale del Cammino de Santiago, siti che pochi conoscono ma nei quali si respira ancora la magia druidica che li ha impregnati per millenni. La mattina dopo colazione, Teresita ed io eravamo già in marcia a piedi verso il Cabo Finisterre, dove sorge il grande faro e l'ultimo promontorio a strapiombo sull'oceano dell'Europa continentale. Piccola sosta alla chiesa di Santa Maria de Finisterre, piena di croci templari e naturalmente chiusa. Tutte le chiese templari della regione possono essere visitate solamente la domenica, quando vengono aperte per la messa di mezzogiorno. Da lì già si cominciava a intravedere l'immensa distesa d'acqua dell'oceano. Dopo un'ora di cammino circa, dal villaggio di Finisterre si arriva al Cabo, dove i pellegrini sono soliti bruciare i loro abiti alla fine del cammino tradizionale, il cammino francese, quello che parte dai Pirenei, da Saint-Jean-Pied-de-Port. Lì ci sedemmo sugli scogli, contemplando il mare e meditando sul senso di ciò che eravamo andati a fare, ricongiungere la fine con l'inizio, il maschio con la femmina, l'est con l'ovest, la nascita con la morte. Poi cantammo a lungo. Durante il canto entrambe ricevemmo la visione di sirene al largo della costa e quando terminammo i nostri corpi erano pesantissimi. Difficile alzarsi, impossibile pensare di tornare all'ostello. Rimanemmo in silenzio, contemplando la massa d'acqua con il suo movimento sinusoidale continuo, ininterrotto. Al tramonto andammo sulla spiaggia occidentale della penisola finisterrana per poter ammirare l'occaso in tutta la sua perfezione. Di nuovo la nostra coscienza era rivolta al punto di contatto e di incontro degli opposti, il centro, il luogo dove si ferma l'oscillazione della dualità. Durante tutta la giornata, in quel luogo arcaico, dall'energia fortemente pagana e femminile, la nostra attenzione fu rivolta alla riconnessione degli opposti. E verso le 19 il sole cominciò a diventare rosso e giunse il vascello, la barca degli immortali, di cui avevamo tanto sentito parlare, all'ovest. Una piccola barca a vela apparentemente antica che mi fece schizzare il cuore. Transitò lentamente davanti a noi, da oriente verso occidente, e si lasciò osservare fino a che scomparve. Nei giorni seguenti, in parte accompagnate da Raffaele e in parte da sole, raggiungemmo e sperimentammo l'energia dei siti più forti della Costa da Morte del Finisterre gallego. E quando, dopo una giornata di escursioni, rientravamo a Finisterre, i deliziosi piatti che Chris e Angel del Caffè della Frontera ci preparavano a qualsiasi ora decidessimo di andare a mangiare, ci facevano sentire a casa, tra sorelle e fratelli. Fummo all'eremo di San Guillermo a Finisterre, antica Ara Solis che sorge sulla montagna della penisola di Finisterre. L'ara è rivolta a oriente per salutare la nascita del sole dall'estremo occidente. Di nuovo un connubio est-ovest. Di nuovo cantammo, sedute nella grotta che ospitò l'eremita e che prima era stata un sito cerimoniale druidico pagano. Avevamo faticato a trovarlo, camminando a vuoto per molte ore sulla montagna. A un tratto, però, a lenire il nostro scoraggiamento, erano giunte tre libellule che ci avevano guidate, cambiando completamente l'energia del nostro movimento. All'eremo de San Bartolo in Vimianzo, antico sito cerimoniale pagano in cima a una montagna, con enormi altari di pietre megalitiche concave, il vento era talmente forte che a stento riuscivamo a reggerci in piedi. Tornammo due volte per poter celebrare le nostre cerimonie con canti e offerte. La seconda volta, dopo un canto durato quasi un'ora, dal nulla apparve un uomo albino che all'accorgersi di noi in un istante scomparve. Ci ponemmo in ascolto e meditazione nelle chiese costruite dai Templari a Santa Maria de Moraime e a Santiago de Cereixo, nei pressi di Moscia, uno dei tre punti, insieme a Finisterre e a Padrón, dove i pellegrini in arrivo da est raggiungevano l'oceano. Rafael ci spiegò che la rosa dei venti degli antichi Celti galaici era composta proprio di tre direzioni e non di quattro come la nostra. C'era Travessia, l'ovest, Vendaval, il sud, e Nord-Est, il Nord-Est. Queste tre direzioni formano la ruota a tre denti, la pata de oca, ossia la zampa dell'oca, simbolo celtico gallego assimilabile alla triskel bretone, e comprendemmo dunque il perché delle tre libellule a guidarci. Nella prima delle tre chiese, quella di Santa Maria de Moraime, il frontone del portale meridionale è scolpito con l'immagine di sette saggi e un bimbo seduti a tavola per l'ultima cena. Rafael ci parlò delle connessioni con i Catari e i Baschi, di cui sia io che lui abbiamo scritto nei reciproci libri. Ci disse che quel bimbo poteva essere sia Giacomo il Minore, fratello di Gesù e ispiratore dei Templari, sia il figlio di Gesù e Maddalena, secondo la linea di pensiero di recente venuta alla ribalta. Poi ci portò alla chiesa di Santiago de Cereixo, dove, sempre sul frontone meridionale, stavano scolpiti gli stessi sette saggi che avevamo appena visto a Moraime, ma questa volta su una barca, nell'atto di vegliare la salma che il mito giacobeo vuole essere quella dell'apostolo Giacomo, approdata alla costa di Galizia su una barca di pietra. In quel momento la voce che mi guida mi informò che i due frontoni, Moraime e Cereixo, anche se distanti chilometri una dall'altra, rappresentano i due momenti del sole. Il bimbo rappresenta il sole che nasce, il cadavere rappresenta il sole che muore. Eravamo quindi ancora una volta al cospetto di antiche pietre che ricordavano e onoravano il cammino solare, dove i sette saggi erano la rappresentazione delle sette sorelle pleiadiane. Il terzo punto d'approdo fu la chiesa di Santa Maria di Moscia, situata in un punto mediano tra le altre due. Chiesa relativamente moderna, costruita per cattolicizzare un sito fortemente pagano, quello della Pedra de Abalar e della Pedra da Barca, entrambi antichissimi altari megalitici di fronte all'oceano. I tre luoghi sono tre step di un viaggio di riconnessione alle origini e alla trasmutazione cellulare che l'antica cultura pagana compiva seguendo le tappe che da Compostela portavano a Moscia e ai vicini Cereixo e Moraime, e da lì al Finisterre, per poi ritornare a Compostela per sostenere e guidare coloro che stavano a loro volta partendo. I gallegi della Costa da Morte dicono che il cammino non finisce affatto a Santiago, come viene normalmente indicato e reputato, bensì comincia a Santiago. Infine fummo a Iria Flavia, alla chiesa di Santa Maria. Il luogo è distante da Finisterre, ma ci si può arrivare anche a piedi, camminando all'incirca per una giornata. La chiesa di Iria Flavia è antica e bellissima. La vetrata di sinistra mostra una meravigliosa vergine nera con bimbo, incorniciata in una mandorla mistica. Naturalmente la chiesa era chiusa, ma Teresita ed io ci sedemmo all'esterno, sui cofani scolpiti di croci templari delle antiche sepolture di pietra. In quel piccolo cimitero, dall'energia pacifica e accogliente, comprendemmo che la nostra ultima tappa era dedicata alla madre. La chiesa di Iria Flavia sorge all'interno di un antichissimo circolo litico di pietre, di cui restano ancora in piedi solo tre menhir. Pregammo e cantammo perché ci fosse indicata la via per poter perdonare ed essere perdonate e, con il cuore in pace, finalmente ci apprestammo a riposare per i restanti giorni. Il Finistère di Galizia è sicuramente un luogo adattissimo alla riconnessione con la fine del ciclo che ricomincia, la fine del ciclo delle incarnazioni. Quando il sole tramonta, il Finistère di Galizia sta contestualmente sorgendo dall'altra parte del pianeta, nell'altro emisfero. Mentre contemplavo l'occaso dal Finistère di Galizia, mi tornò alla mente un brano che avevo letto qualche anno prima, un brano di Ruth Noel, mitologa americana, che scriveva: Le isole beate, dimora di numi immortali o di defunti, costituiscono un tema ricorrente nella mitologia, esse si trovano a ovest. Infatti, per chi osserva il ciclo quotidiano del sole, l'occaso si associa non solo all'idea della morte, ma anche a quella dell'immortalità, poiché dall'ovest il sole prosegue il suo viaggio, apparentemente sotterraneo, per risorgere di nuovo a oriente. Molte civiltà hanno collocato all'occaso la terra degli immortali. Per i Sumeri, nell'isola paradiso Dilmun, all'estremo ovest, il lupo e l'agnello non erano più nemici e non c'era la vecchiaia. Per gli Egizi, la terra immortale era oltre i monti della Libia. Per i Greci, erano delle mitiche isole occidentali. Per i Teutoni, i beati vivevano nelle isole britanniche, mentre per i Britanni era l'Irlanda la terra immortale, sempre più a ovest. Gli irlandesi dal canto loro guardavano a ovest e associavano con la terra dei morti una piccola isola rocciosa chiamata Teck Duin, la casa di Don, dove Don, mitico antenato degli irlandesi, invitava i defunti. Più oltre c'era il mitico arcipelago di 3 volte 50 isole remote, dove non c'era né vecchiaia né morte, bensì amore innocente, festa e musica di soprannaturale bellezza. Alcuni oltremondi sono la dimora soltanto di elfi, in altri i defunti vivono in mezzo agli elfi e sono da essi governati. Mi resi conto che il cammino di Santiago era un andare verso ovest, e poiché la terra è rotonda, non esiste un ovest assoluto. Quindi andare verso ovest è un moto che si può compiere in qualunque luogo, anche idealmente, sebbene ci siano alcune linee di energia che si prestano particolarmente alla trasmutazione alchemica. Perché andare a ovest è trovare la terra immortale? Perché si cammina in senso contrario a quello del movimento terrestre. Quindi se il moto terrestre porta all'invecchiamento e alla morte a causa del trascorrere del tempo, camminare in senso contrario, cioè verso ovest, significa camminare in senso opposto a quello del tempo e quindi fermare l'invecchiamento. Per prepararmi a entrare in Santiago de Compostela, percorsi con mio marito un mio itinerario più o meno intorno al 42° parallelo e 52 primi, in automobile, su e giù per i Pirenei navarreni, attraverso i paesini che ancora conservano forte il sapore della tradizione basca, fino all'interno dei Paesi Baschi, dove la rivolta è ancora viva e le ferite della repressione franchista aperte. L'idea era di viaggiare attraverso tutte le terre che da sempre sono state violentate e represse nelle loro tradizioni, soprattutto quelle pagane di fervida fede verso una divinità femminile. I baschi ancora onorano una dea madre che si chiama Mari. Dopo l'uscita dai Paesi Baschi, l'itinerario attraverso la Cantabria mi ha portato nelle Cuevas della Moneda y el Castillo, le grotte di Puente Viesgo vicino Altamira. Lì, nel cuore profondo della Cantabria, di fronte ai petroglifi che dopo decine di migliaia di anni ancora riescono a emozionare, mi sono profondamente riconnessa alla madre. Il viaggio poi è proseguito nelle Asturias, sui Picos d'Europa, territorio magico e fortemente energetico, su e giù per il Desfiladero de los Bellos, sempre lungo il 42° parallelo, coi suoi aguzzi monoliti guardiani e la sua dolce fonte sacra, così simile a quelle sarde, naturalmente ribattezzata Fuente dell'Infierno per scoraggiare il culto pagano all'acqua. E di nuovo sulla costa dell'Atlantico, attraverso spiagge selvagge, solitarie e belle, al di là di ogni possibile descrizione, fino a Cabo Ortegal, uno scoglio che penetra nel mare nel nord della Galizia. Da lì, scendendo attraverso la splendida Corugna, finalmente arrivai a Santiago, col cuore che sembrava voler schizzare fuori dal petto. Finalmente entrai nella cattedrale, in silenzio, e con gli occhi semichiusi, e nulla, nulla di nulla, nemmeno la più piccola vibrazione. Ma com'era possibile? In un luogo così carico di preghiere e ritualità io non percepivo nulla. La voce che mi guida cominciò a parlarmi nella testa. La fine del cammino de Compostela non è a Santiago, è il mare. Cercando conferme a questa intuizione, entrai in una libreria dietro la cattedrale di Santiago di Compostela e chiesi un libro che parlasse del cammino prima della tradizione cattolica. Il libraio mi consegnò El Camino Secreto de Santiago, la ruta pagana de los muertos, di Rafael Lema Moussos, poi da me contattato e divenuto amico e coautore di questo libro. Da lì appresi che il cammino esiste da epoca pre-celtica, circa 30.000 anni fa, e attraversa l'Europa partendo dal Mar Nero. La sua vera fine è naturalmente il mare, l'ocaso, la barca del sole, che segna anche il momento della trasmutazione alchemica. Divorai il libro, scoprendo l'esistenza di un Finisterre gallego allineato al 42° grado e 52 primi, al quale giungono ancora oggi molti pellegrini come fine reale del viaggio. Finisterre dista circa 100 km da Santiago de Compostela e rappresenta la vera fine del cammino sul mare. È il punto più occidentale d'Europa. Lì i pellegrini bruciano i loro indumenti in un rito di vera morte e rinascita. L'ultimo pezzo del percorso, quello che da Santiago porta al mare, è fortemente impregnato della tradizione celtica e pagana e di luoghi nei quali i templari hanno lasciato la loro impronta, sotto forma di croci e santuari, come Muxía, Muros, Noia e Padrón. Ecco quanto mi sembra di aver compreso. Mi allineo a quanti hanno seri dubbi sulla reale esistenza delle spoglie dell'Apostolo Giacomo sotto la cattedrale, come vuole la tradizione cattolica. Credo che se il camminante non prosegue fino al mare, la trasmutazione alchemica innescata all'inizio del cammino semplicemente non avviene. Quindi il o la camminante che si ferma a Santiago de Compostela blocca il processo alchemico. Forse per questo è stata costruita la cattedrale, come prova intuitiva da superare. Il simbolo della Galizia è la strega con un cappellone e la scopa, che ricorda tanto il buffo cappellone di Santiago e il suo bastone. Il cammino è di segno femminile e, come tutti gli antichi riti e siti pagani, era un cammino della mano sinistra, era un cammino dedicato alla madre. È stato reso socialmente accettabile trasformando la strega, la donna di conoscenza, in un maschio, nell'Apostolo Giacomo. E se Santiago fosse femmina? La conchiglia, simbolo del cammino, è il simbolo pagano dell'energia femminile e veniva raccolta da pellegrini e pellegrine che giungevano al mare. La storia dell'apostolo è stata creata più tardi per cattolicizzare la via alchemica pagana, come spiega Rafael Lema più avanti. Ecco perché non ho sentito nulla al mio ingresso nella cattedrale. La grotta della supposta tomba è uno degli ombelichi del mondo. Un punto magico tellurico di primo livello, un bosco sacro celta, un sito rituale di centinaia di anni anteriore rispetto alla creazione del mito cattolico giacobeo. Il cammino è una via millenaria amplificata dal cristianesimo che riconvertì vecchi pellegrinaggi pagani. Arrivando a Santiago de Compostela, il pellegrino o la pellegrina decideva di prolungare il suo viaggio fino alla Costa da Morte, la frangia costiera meridionale dell'attuale provincia di Coruña, la capitale gallega. Terra, fino al 1836, dell'antica provincia compostelana. È la via che ufficialmente si denomina Camino de Finisterre Moxía. La Costa da Morte di Galizia era per gli antichi l'ultimo tratto di terra conosciuta, finale di un itinerario speculare alla Via Lattea e luogo dove si collocava il sole al tramonto. La visione del mitico capo di Finisterre e del santuario ancestrale del culto alle pietre di Moxía era il culmine di questo pellegrinaggio, una corrente segnata da una trascendenza simbolica, astrale molto antica, ma collegata, dal Medioevo in poi, alla tradizione giacobea, dal culto cattolico. La meta finale del vero cammino è il Capo Finisterre, il santuario della barca a Moxía, rispettivamente a 89 e 87 km da Compostela. Il cammino inizia presso la cattedrale compostelana, dalla oggi scomparsa Porta del Pellegrino, uscendo dalla città verso ovest in direzione di Augapesada a Mes. Dopo aver ritualmente bruciato nel braciere del promontorio finisterrano gli indumenti indossati durante il pellegrinaggio, il pellegrino, la pellegrina, inizia un cammino costiero a Muscia dove incontra il santuario di Nostra Signora della Barca, di fronte al mare, e al lato di un sito rituale galaico celta, la pietra de Abalar, un enorme monolito. È il cammino post-giacobeo di Finisterre-Muscia. La parte più occidentale della provincia di Corugna, un tempo Trastamara, oggi conosciuta come la Costa da Morte, ma anticamente denominata Nemancos, nome celtico che significa il paese dei boschi sacri. Successivamente dominata, al tempo della creazione del mito giacobeo, dalla nobile famiglia dei Conti Traba, protettori di Benedettini e Templari. I punti cruciali del tratto finale del cammino di Compostela erano e sono Finisterre e Muscia, il cui punto di unione al centro è il monastero benedettino di Moraime, allineato col monte Larun nei Paesi Baschi francesi, appena sotto Hendaye. Pellegrini e pellegrine che arrivavano a Santiago de Compostela proseguivano il cammino fino al mare, dal quale inizialmente prendevano il simbolo del cammino stesso, la conchiglia, per dimostrare di essere arrivati al mare. Senza dubbio, prima del secolo VII nessuno aveva mai parlato della predicazione di Santiago Giacomo in Spagna. Sono molti gli autori che, criticando la improbabile veridicità della predicazione dell'apostolo in Spagna e del ritrovamento del suo corpo in un bosco gallego, non dubitano che la forza del mito abbia basi millenarie molto più antiche e profonde. Il viaggio vero era al Finisterre, al mare, all'oceano, seguendo la Via Lattea. Questo cammino delle stelle, Campus Stellae, da cui il nome Compostela, disegnato dalla mano di Dio in cielo, la discesa del sole nel mare all'estremo del mondo conosciuto, il luogo più vicino al paradiso. Compostela e Finisterre non nascono dal nulla. E non sono mera invenzione dei monaci, bensì sono trasformazioni di luoghi di potere tellurico conosciuti da sempre. I luoghi di culto e i grandi santuari gallegi sono gli stessi che migliaia di anni prima del cristianesimo erano già lì, ospitando sorgenti di acqua sacra sotto gli altari. Ancora oggi c'è la tradizione e l'opera delle meighe, che ha la stessa radice di maghe, sono sciamane e guaritrici gallieghe di Galizia che curano i corpi e le anime. Esse continuano la loro opera dopo migliaia di anni. Finisterre è il portico della gloria della mitologia europea, è uno spazio millenario e universale, sia fisico che della mente. In tutte le culture, quella classica, quella celta, quella germanica, la barriera acquatica è un passaggio per l'altro mondo. Un altro mondo di connotazione positiva, senza nozione di peccato, con abbondanza di cibo e bevande, recipienti magici e musica di uccelli. Era possibile visitare quei mondi e ritornare indietro. Sono considerati luoghi meravigliosi, divisi in regni coi loro sovrani. Luoghi positivi, reali e palpabili, dove convivono vivi e morti nelle terre dei vivi e dei morti. Era possibile accedere ai luoghi soprannaturali attraverso i resti di un dolmen, di un antico villaggio o di alcune rovine. In Galizia lo si fa attraversando le mamoas, dolmen coperti. In Irlanda si narra di un regno dei morti situato in un'isola, il Tac Duin. La mitologia celtica cita isole proibite di diverso tipo, lontane isole dove il tempo si ferma. E c'è un'isola del più in là, che in gallego si chiama Alen. Nella mitologia nordica si credeva nel Valhalla celeste, le mitiche Thule e Asgard fluttuanti nello spazio e unite alla terra da un arcobaleno. Nella tradizione celtica c'era l'isola di Tir na n'Og e la famosa Avalon Britanna, l'isola delle mele. Anche Atlantide stava al di là delle colonne d'Ercole, a occidente, come descrive Platone nel IV secolo avanti Cristo. I romani seguirono i greci nell'ubicare il paradiso a occidente e sempre c'è la presenza dell'acqua come limite tra i due mondi. Vi è il barcaiolo che traghetta di là visitatori e anime. In un affresco di Paestum in Campania, un tempo Magna Grecia, un giovane che si tuffa nell'acqua rappresenta l'allegoria dell'armonioso transito dalla vita alla morte. In Galizia, vicino a Muxía, a Vilarmide, vi sono le Caldeiras do Castro. Si tratta di una grande cascata che un tempo era il santuario ancestrale dei Celti Neri. Prima del Medioevo esisteva la credenza diffusa che il paradiso fosse all'estremo occidente, situato in certe isole mitiche. I labirinti di Galizia, scolpiti nei petroglifi di Carnota, Dumbria, Berdoias, o i sentieri fino agli antichi templi dedicati a Nostra Signora, Moraime, Iria Flavia o Finisterre, andavano verso un centro, il culto della Dea Madre, dispensatrice di prosperità, fecondità e raccolti abbondanti. Anche il mito del corpo, trovato smembrato in una barca miracolosa, esisteva già prima della storia cattolica di Giacomo. Il dio egizio Set, invidioso del fratello Osiride, lo uccide e deposita il cadavere in una barca che pone nel Nilo. E Hiram di Tiro, costruttore del Tempio di Salomone, da cui discendono i Templari, fu ucciso da alcuni invidiosi della sua arte. I suoi compagni, secondo la leggenda, rubarono il suo corpo e lo portarono ad Occidente in una barca magica. La barca è il mezzo utilizzato dal culto egizio per andare nel più in là, come le 14 navi della tomba di Tutankhamon. Vi sono poi monti della regione legati a culti ancestrali, ora cristianizzati, con santuari posti di fronte alla morte del sole e all'oceano, come la punta da barca a Muxía, proprio dove sorge l'attuale santuario mariano. E anche Maddalena giunse con una barca sulla costa francese. Il camminante, la camminante che giunge fin qui deve morire, dimenticarsi di ciò che fu e iniziare il rituale di trasformazione. Per questo i pellegrini germanici bruciavano i loro indumenti al Cabo Finisterre. Ci troviamo in una via terrestre che è il riflesso di un cammino stellare, un canto di comunione con la natura, una ricerca e un incontro. Dice una cantica popolare che termina il suo pellegrinaggio solo colui che arriva a Finisterre. Fu da un bosco di idoli indigeni che nacque Compostela. Per poter attraversare le acque magiche dobbiamo usare barche straordinarie. Santiago arrivò in una barca dal più in là e con lui in barca arrivarono molti santi cattolici. All'arrivo del Sant'Uomo in una barca di pietra è stato collegato anche l'antico santuario gallego di San Andrés de Teixido. In realtà la via fu aperta 30.000 anni fa da ondate di camminanti che seguivano le stelle, il cammino che portò a Occidente le genti dell'Est in epoca megalitica. Tutti e tutte furono pellegrini al Finisterre, anche i Celti. Venere, Afrodite, era chiamata dai Parsi Astarte, equiparabile a Diana e alla galaica Bandia, protettrice delle acque termali. Il termine Finisterre proviene dal latino finis terre, il fine della terra, ma potrebbe avere a che fare anche con l'antico germanico finstern, ovvero oscurità. Questo era il nome della stella Venere e la chiamavano così perché riceveva le anime di coloro che spiravano e perché brillava a occidente in cima alle acque dove terminava il mondo, lì dove le barche che abbandonavano le onde non tornavano a riva. Gli Esseni credevano che le anime buone andassero al di là del mare a Occidente, in una terra dove non ci sono mai né tormenta, né pioggia o neve, né calore insopportabile. I Mandei, discendenti della primitiva chiesa di Gerusalemme, di cui il patriarca era appunto Giacomo, Santiago in spagnolo, credevano che gli abitanti di questa lontana terra fossero indicati da una stella di nome Merica. La stella e anche la luce dell'alba dei Nazirei, la primitiva setta di Giovanni Battista e di Gesù. La stella vespertina, Venere, la stella dell'Occidente, che figura in tanti scudi di nuove repubbliche americane. Il cammino della stella dell'Occidente porta alle stesse domande che si sono fatti i Mandei, ma anche tutti i pellegrini che sono giunti in Galizia. Overstrimni, Celti, Svevi, Vandali, Visigoti, Catari, Gnostici, Pitagorici, Maestri del Romanico, Templari, Fenici, Vichinghi e Almoravidi. Moraime e Muxía sono le terre della stella Venere, la stella a cinque punte del sigillo di Salomone. In questo luogo c'erano due castri vicini e una fonte sacra. Alcune antiche divinità galaiche avevano relazione con le acque, come le signore celtiche e le divinità indoeuropee. Nello stesso modo in cui la Dea Madre era associata alle rocce e l'arcobaleno era il ponte per l'altro mondo. Le fonti venivano chiuse in santuari, creati in pietra e a forma di tempietto dove si onorava Venere, Isis, la madre terra, le divinità locali dell'acqua e tutti gli aspetti della divina energia femminile. È possibile che la conchiglia servisse originariamente come simbolo di quell'altro cammino, quello pagano che giungeva al mare. La conchiglia è un simbolo sacro della Costa da Morte, da molto prima della nascita del mito cattolico giacobeo, poiché sono state trovate conchiglie in bronzo che risalgono all'epoca romana. Ancora oggi la grande festa della Vergine della Barca di Muscia non si celebra nella chiesa parrocchiale, ma nel santuario da barca, che è sempre stato più un tempio pagano. Il cammino segnato dalla conchiglia era un cammino pagano dove si adoravano le divinità femminili ipostasi della dea. L'uomo o la donna devono risvegliare il principio divino sopito nella loro umanità. I pitagorici sostenevano che per risvegliare tale sapere, gli uomini, le donne, i camminanti dovevano seguire il cammino della Via Lattea per entrare negli inframondi. I vichinghi giunsero in Galizia e ci si fermarono per un certo tempo, convinti che il paradiso fosse qui di fronte al Finisterre e che ci si arrivasse con un viaggio meraviglioso su una barca sacra. La barca dei naviganti nel tempio di Sereisho, che parla un antico linguaggio ancestrale di barche sacre. Fonti incantate, miti e leggende pagane, rituali con l'acqua curativa, lungo tutte le tappe gallieghe del cammino, ci ripetono che esso era anteriore al mito giacobeo. Ma nessuno ha mai perso tempo a studiarlo o a dimostrarlo per paura di disconnettersi da questo recente impulso neo-giacobeo ufficiale che dilaga in Europa impregnato di turismo e superficialità, senza nulla a che fare con la vera essenza del cammino che è spiritualità e comunione. Dalle regioni del Mar Nero, patria dei Galati, partì 8.000 anni fa una corrente migratoria che non si fermò, lungo il cammino che oggi coincide con quello giacobeo. Dal 3500 avanti Cristo, la cultura megalitica gallega ci parla di una sola popolazione unita da vincoli culturali e da concezione religiosa. Dal 1800 avanti Cristo appaiono nella regione artisti che erano anche sacerdoti e sciamani. Infine giungono i Celti e la storia ufficiale. Ancora oggi le festività del calendario agricolo e religioso della Costa da Morte sono quelle della tradizione celtica: Imbolc, Beltane, Lugnasad e Samhain. Quando nel VII secolo avanti Cristo i Celti Galli giunsero in queste terre di Galizia, vi trovarono popoli della loro stessa stirpe e idioma, chiamati Neri o Keltoi dai Greci, Artabri dai Cartaginesi e Celti dai Romani. I ricercatori confermano l'esistenza di una primitiva nazione celta ai margini del Mar Nero, la regione dei biblici Galati, nazione che realizzò la rotta ancestrale del grande viaggio lungo il percorso della Via Lattea verso il Finisterre occidentale. I Celti iberici sono i più antichi d'Europa perché discendono da quel ceppo primitivo di camminanti galati. Giacomo, Santiago, era un personaggio speciale all'interno del mondo gnostico e iniziatico della primitiva chiesa cristiana. Sarà presente come guida per gruppi di cristiani speciali che fanno un altro cammino. La leggenda della predicazione in Spagna e della scoperta del corpo di Giacomo nella costa gallega si basa su una falsificazione storica. Tale leggenda è stata riconosciuta falsa dai maggiori scrittori spagnoli contemporanei. La prima chiesa giacobea fu costruita ad Avezan seguendo strane luci. Poi, nell'820, di nuovo luci vengono avvistate in un bosco sacro e subito dopo viene scoperta la tomba dell'apostolo Giacomo. Ma migliaia di anni prima dell'espansione del cammino giacobeo ci furono popoli che emigrarono fino alla Costa da Morte gallega, popoli che credevano che il paradiso fosse a occidente al tempo del megalitismo, popoli che provenivano dall'est europeo e dal Mar Nero. La conchiglia, oggi considerata simbolo di Santiago de Compostela, era l'oggetto marino che i camminanti raccoglievano come prova di aver raggiunto la costa. È il bosco sacro di un cammino millenario che va oltre le sue origini e si mantiene vivo. I promontori galaici sono luoghi sacri fin dall'età del ferro. Tutt'oggi giungere al mare di Finisterre rappresenta un'esperienza di catarsi e di rinascita. Te divina manus perducat ad dexteram. Queste parole sono scritte su una lastra di metallo all'ingresso orientale della cattedrale di Santiago de Compostela. Il pellegrino che giunge dai Pirenei, a piedi, entra per quell'ingresso, appoggia la mano sulla colonna e viene consegnato alla mano destra, ad dexteram, cioè la via maschile, delineata da tutte le religioni patriarcali monoteiste, tra cui quella cattolica romana. Ma il cammino di Compostela non è questo. L'antica via pagana che portava all'oceano, alla ricerca della puesta del sol, l'estremo tramonto, per incontrare la morte, era una via della mano sinistra, non della destra. Era una via femminile, connessa alla madre e alle sue cerimonie. Si snodava tra dolmen e corsi d'acqua, attraversando boschi sacri, tra cui Nemancos, dove oggi sorge Santiago de Compostela, e che al tempo dei Celti era un luogo di culto della natura. Santiago non è la fine del cammino. Per molti è solo l'inizio. Ci sono molti cammini per Compostela, dal Mar Nero, dal Nord Europa, dall'Inghilterra, dal Portogallo, dalla Spagna meridionale e dalla Lombardia. Le tre abbazie cistercensi milanesi di Chiaravalle, Morimondo e Cerreto di Lodi erano punto di incontro e incolonnamento delle carovane che partivano in pellegrinaggio alla volta del Finisterre di Galizia. Il cammino di Compostela, Campus Stelle, ha 10.000 anni. La leggenda giacobea, secondo la quale le spoglie dell'apostolo Giacomo, che storicamente non mise mai piedi in Spagna, furono rinvenute dove oggi sorge la cattedrale di Santiago, viceversa ha solo qualche centinaio di anni. Sul come e perché il cammino verso Ponente sia stato colonizzato e snaturato esistono molti studi, e per maggiori notizie vi rimando allo studio di Raffaele Mamouso, che tra un po' potrete sentire tradotto proprio da me. Tra tutti i cammini possibili, io ho scelto di seguire le tracce dei Templari sul cammino della Oca, l'antico cammino celta del dio Lug, che parte da e ritorna a piedi a Santiago dopo aver raggiunto Finisterre e Muscia sull'oceano. Da tempo cercavo un cammino che mi risuonasse e che non poteva essere il tradizionale e più famoso cammino francese, quello cattolico, che parte da Saint-Jean-Pied-de-Port o da Roncisvalle. Da qualche anno studio i siti di potere legati all'ascensione lungo il 42° grado e 52 primi, cominciando da Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata e proseguendo verso ovest, attraversando longitudinalmente i Pirenei, dalle terre catare nel Lodo francese e nella Catalunya spagnola a quelle basche che si affacciano sul Golfo di Biscaglia. Il cammino che ho percorso in auto nel 2010, attraversando tutto il nord della Spagna, è il cosiddetto Cammino del Norte, che costeggia l'oceano attraversando il Paese Basco, Cantabria, Asturias, per giungere in Galizia. A piedi è molto duro, le distanze da percorrere tra un alloggio e l'altro sono circa di 40 km al giorno ed erano per me troppo lunghe. Così, quando Teresita Ramos mi fece ascoltare una trasmissione radiofonica in cui lo studioso ed esoterista Santiago Pacín parlava del cammino della Oca, sentii immediatamente che era quello che avrei percorso. Nel Museo delle Peregrinazioni di Santiago ho trovato le seguenti informazioni. Per la cultura classica, l'oca e il cigno erano simbolo di saggezza e iniziazione. Altri indizi relazionano il gioco dell'oca con l'ordine dei Templari e con la loro funzione di salvaguardia dei cammini sacri. Il gioco dell'oca costituirebbe una versione allegorica e ridotta del cammino di Santiago e dell'uomo viaggiatore o della donna viaggiatrice, dove le oche rappresentano le case del tempio, luoghi sicuri corrispondenti alle tappe fissate dal Codex Calixtinus. Pacín parlava del cammino degli antichi druidi che andavano e tornavano in un percorso a forma di zampa d'oca triangolare, il quale si snodava lungo le tre direzioni della cultura celtica di cui abbiamo detto prima: travessia, sud, vendaval, ovest e nord-est, il nord-est, che per me sono Santiago il sud, Finisterre l'ovest e Muscia il nord-est. E fu proprio l'idea di ritornare che fin da subito catturò la mia attenzione, di tornare a piedi. Il cammino verso ovest è una metafora della vita, da est a ovest, dalla nascita alla morte, con un pesante zaino sulle spalle. La tradizione vuole che, giunti al Finisterre, i pellegrini bruciassero gli abiti, sia per questioni di igiene, sia come rito per abbandonare le zavorre e il passato. Oggi I pochi pellegrini che raggiungono il Finisterre tornano a Santiago in bus. L'idea del ritorno a piedi è quella che mi ha catturata. Il ritorno per consegnare all'umanità ciò che è stato trovato alla fine del viaggio di andata. Gilgamesh, Alessandro Magno e tutti gli eroi e le eroine che sono partite per incontrare la morte e raggiungere l'immortalità sono poi tornati indietro per portare ai vivi questa conoscenza, come Prometeo. Diventa immortale colui, colei, che incontra la morte e torna indietro alla vita. Il cammino verso ovest è un cammino incontro alla morte. Una volta raggiunto l'oceano, la puesta del sol è la comprensione che la morte è un passaggio per la vita dall'altra parte dello specchio. L'eroe ritorna a est per incontrare nuovamente la vita ed è lì che diventa immortale. È lì che il cerchio si chiude. Il ritorno verso est a piedi è altrettanto importante che l'andata verso ovest. Il cammino di Compostela può risanare, per la legge alchemica dell'analogia, ciò che non si riesce a compiere o a comprendere nella vita ordinaria. È una lunga meditazione attiva sulla vita, la morte, l'immortalità. Con questo intento sono partita a piedi da Santiago con Teresita alle 8 di sabato 18 agosto 2012, diretta a ovest verso l'oceano, cercando tutti i punti dove fermarmi e collegarmi alla madre, dove celebrare cerimonie nell'acqua e offrire tabacco, riso e sale. Sono arrivata di ritorno a Santiago il mercoledì 5 settembre 2012 alle ore 16. Ho vissuto il cammino in tre parti, collegandole alle tre fasi alchemiche della Nigredo sul tratto Santiago-Finisterre, Albedo sul tratto Finisterre-Muscia e Rubedo sul tratto di ritorno Muscia-Santiago. Il diario del cammino della Oca, con tutte le indicazioni riguardo le tappe, i luoghi dove dormire e mangiare e i siti di potere tellurico dove fermarsi per contattare l'energia della Dea, è scaricabile dal mio sito alla sezione libri.